terra e io tal suol, qual altro cieco mi ascondi a miei rimorsi. Io t'ho tradita, bradamante mia vita, tornate al cuore o lagrime, innavate la macchia del mio errore, macchia forzata d'involontario error. Non passa il cuore, segna il volto però d'un gran rossore. Che dirò generosa, illustre figlio, l'alta virtude nobile matita, consola trugger, come si vede dopo un turbine vivo, splendia più chiara in cielo, splenda serena, così quell'alma irata, tosto vedrai da sdegni suoi placati.